Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, vi parla Daniele Biacchessi. Quella che va ad iniziare è la seconda puntata di Italia in controluce, il programma quotidiano ma con taglio di magazine che va in onda due volte al giorno alle 6.30 in forma di pillola, in questo reportage più lungo intorno alle 13.30. Dopo i blocchi delle autostrade, gli scontri con la polizia e i carabinieri, dove è finito in questi giorni il movimento No TAV? Sentiamo il reportage di Raffaella Calanda. Noi proponiamo un momento di riflessione, noi abbiamo il diritto di protestare. A questo punto, secondo me, non è più un momento di buttare via dei soldi e del tempo. Adesso inizia il momento che l'opera deve partire. Ora la Valsusa è a un bivio tra la resistenza ad oltranza e il via libera al supertreno, tra la mediazione e lo scontro. Dopo 20 anni di polemiche, divisioni, di progetti e revisioni, dopo 20 anni di spaccature e ricomposizioni, la valle ora è arrivata ad un punto di svolta e guarda al suo interno. Questo è sicuramente un momento importante. Si sta consumando una specie di epifania, anche di una storia, immaginario che si è costruito in tutti questi anni e che adesso fanno i conti con la realtà. È un bivio che matura dei processi di lungo periodo, ecco. A Mario Virano, già presidente dell'osservatorio sulla Valsusa, il governo Monti ha affidato il difficile incarico di commissario straordinario per l'alta velocità. E lo sa questo architetto di Rivoli che ora, dopo la guerriglia ai cantieri, dopo gli arresti e dopo gli attacchi al procuratore di Torino, dopo le spaccature e le ferme risposte della politica, lo sa il commissario che questo è un momento cruciale, che il movimento cammina con un equilibrio delicatissimo e che per la valle intera questo può essere davvero il momento di svolta. Molti pensavano che la cosa si fermasse per strada, no? E quindi adesso che si arriva proprio al dunque, chi ci crede finalmente comincia a vedere la possibilità concreta che le cose su cui era d'accordo si attuino. Chi era ed è contrario vede che questa prospettiva, quello del blocco dell'operazione, in realtà ha trovato un convincimento, una determinazione. Ma chi avrebbe mai detto 2 anni fa che l'Europa avrebbe scommesso così fortemente su questo intervento? Che i governi che si sono succeduti di segno diverso, con tutte le lacerazioni che ci sono state, avrebbe sulla Torino-Lione mantenuto la barra dritta? Secondo lei c'è stata negli ultimi tempi soprattutto una forma di fagocitazione da parte di chi è contro la TAV rispetto alla quota invece di chi la sostiene? Che ci siano state pressioni, intimidazioni, un clima ostile, questo è assolutamente scontato e ovvio, ma la differenza è che mentre 5 anni fa, no? Le voci favorevoli sia a livello istituzionale che a livello sociale non si esprimevano e quindi l'impressione era di una valle totalmente schierata sulle posizioni no-TAV, no? Oggi c'è una parte molto rilevante e io ritengo con qualche fondamento maggioritaria che ha trovato lo spazio e sente la forza per cominciare a dire che quella strada lì del no totale è una strada perdente che non porta da nessuna parte. Ma dove sta la maggioranza? Con chi è a favore del treno, anche se ha meno voce, come ritiene Virano, o con chi scende in strada e protesta contro la TAV? Di sicuro il piano di compensazioni e risarcimenti per i paesi della valle per i disagi provocati dai cantieri piace a non pochi amministratori, come Mauro Meneguzzi, sindaco di Salice Dulzio. È giusto che il territorio abbia dei bonus, abbia delle forme di agevolazione fiscale. Noi addirittura daremo proporre l'istituzione di una zona franca per la durata di tutto quello che è il cantiere della TAV, di modo che l'Alta Valle di Susa, che è un territorio d'eccellenza nel campo degli sport invernali e della mountain bike estiva, venga equipata a quella che è Livigno, e con questa forma di compensazione si possa sopportare quelli che saranno obbligatoriamente e inevitabilmente i disagi e delle proteste che io ho proprio paura non termineranno domani. C'è una parte di valle che ha sempre detto soprattutto no a questo modo di protesta. Io ritengo invece personalmente che le scelte di una grande infrastruttura che interessa sia il territorio nazionale che tutta l'Europa spettino principalmente agli enti preposti, quindi al governo, alla regione. Adesso inizia il momento che l'opera deve partire. Resta contrario il presidente della Comunità Montana, Sandro Plano, sempre in prima fila nelle manifestazioni contro il treno, anche se si è pronunciato contro le contestazioni al procuratore di Torino, Giancarlo Caselli, per gli arresti dovuti ai vecchi scontri. Io personalmente ribadisco la mia stima per il magistrato. Naturalmente non approviamo questi arresti. Molte persone invece del movimento NoTav sostengono queste manifestazioni perché... La democrazia è bella perché varia, no? Ma non pensa che questo tipo di episodi possa portare ad una prevalenza di quell'area invece che fa più rumore? C'è chi contesta Caselli come c'è chi tira le pietre. La posizione degli amministratori è molto netta e non si contesta Caselli, non si condividono però gli arresti. C'è qualcuno che non ci sta ad essere uguale agli altri di fronte alla legge. L'ordinanza è pubblica, a pagina 27 si parla di devastante e incontenibile violenza, condotte combattive organizzate, configurazione tipicamente sovversiva. Se questa è la ricostruzione della procura, nelle parole di chi la guida, Giancarlo Caselli, quali possono essere gli scenari per il movimento NoTav? Al Viminale si teme un'infiltrazione ancor più forte degli anarco-insurrezionalisti. Si teme che il movimento e le sue proteste possa essere usato come vetrina da chi voglia fare gesti eclatanti. Per questo il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, marca con Radio 24 l'importanza di separare le proteste dei valligiani da tutto il resto. NoTav significa tante cose. Ci possono anche essere anche delle ideologie dietro le quali si possono nascondere anche fenomeni avversivi, perché possono prendere degli sviluppi e delle forme che vanno molto al di là della semplice protesta ambientale o della protesta dei valligiani. Ormai è diventato un po' un simbolo, no? Era come il simbolo contro le centrali nucleari, adesso c'è il simbolo NoTav, un filone molto delicato perché si è caricato di significati ideologici che vanno molto al di là della TAV per quello che rappresenta o per il tipo di lavoro che poi si farà, una quantità ridottissima in galleria, quindi non è quel mostro che viene vissuto, ma viene vissuto come un fenomeno di una situazione anche particolare e per cui diventa l'oggetto e il segnale di tutta una serie di malesseri. La TAV e tutti i gruppi sociali eccetera hanno messo le loro attenzioni. Io sono convinta però che parlando, e questo lo stanno facendo, ascoltando le popolazioni, cercando di comprendere le ragioni delle popolazioni, perché in tutte le cose c'è sempre una ragione. Alla fine chi non è direttamente interessato o chi non ha uno specifico motivo verrà isolato, perché comunque saranno manifestazioni un po' come le manifestazioni che si sono avute per il G8, per il G20, cioè sono segni di malessere di una società moderna che a volte vede degli obiettivi per manifestare un dissenso, diciamo. È importante riuscire a distinguere questo da quelle che sono le naturali, le giuste proteste. Ma sono stati gli amministratori a lasciare un vuoto, è l'accusa del commissario Virano, che avverte singole schegge possono sfuggire anche al controllo delle aree più radicali. La leadership fino al 2010 era in mano ai sindaci, erano gli amministratori locali che tenevano emarginate quelle componenti più estremiste. Dopo il 2010 la leadership è passata di mano ed è passata ai comitati. Esiste il concreto rischio che ci possa essere un ulteriore passo in avanti? Il rischio che ci siano delle schegge minoritarie che, sfuggendo alla ragionevolezza anche dei gruppi dirigenti più estremisti, no? Cioè, la leadership del centro sociale a Scatasuna è fatto da gente che dal punto di vista della lucidità politica è gente sicuramente capace, mantengono il senso delle proporzioni di ciò che è invalicabile. Frange, schegge impazzite, casi isolati che possano andare oltre i limiti che abbiamo già visto, non mi sento affatto di escluderlo. Un rischio su cui la Valle si interroga, preoccupata, mentre la politica blinda i cantieri e anzi preme sull'acceleratore dei lavori. Un rischio che mette ancor di più la Valsusa di fronte al suo bivio. E la reportage di Raffaella Calanda sul movimento Nottava. Domani avremo invece un'intervista sempre di Raffaella Calanda ad Anna Maria Cancellieri, il ministro dell'Interno, sui rischi di nuove più aspre violenze e di infiltrazioni della mafia sui cantieri della Valsusa. Quindi un'intervista che verterà soprattutto sul tema della TAV.